Se tu conosci il mondo, tu conosci. Se tu conosci il mondo, tu conosci me. Capito o no? Perché se ti vedo in giro così, madonna ragazzi, vuol dire che fai schifo. Hai capito o no? Perché se ti vedo in giro così, madonna ragazzi, vuol dire che fai schifo.